le 8, 19 minuti e 12 secondi, è la terza parte di 24 mattino di venerdì 30 ottobre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Alle 8.35 torneremo a parlare dell'attentato di Nizza e ne parleremo in una chiave che ci sembrava scomparsa, o forse quello che stiamo vedendo ne è un po' la coda lunga di quella che 20 anni fa abbiamo iniziato a chiamare scontro di civiltà. Qualcuno lo rievoca in queste ore. È il momento però, e anche di questo parleremo col nostro Paolo Mieli, è il momento dell'appuntamento con lui. Paolo, buongiorno, eccoci. Buongiorno a te. Senti, Ibrahim Awasui, così sì. Si chiama l'attentatore che è l'eroe del giorno, ma dimmi. No, ti dicevo, se senti gli echi di quello di cui abbiamo iniziato a discutere 20 anni fa con gli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, li senti gli echi in queste ore? Assolutamente sì, non è mai finita, è una partita ancora tutta aperta. E la crisi con il radicalismo islamico è un po' come il Covid, ogni tanto si acqueta e tutti dicono vabbè è finita, dai... Festeggiamo, è una cosa che ci siamo lasciati alle spalle. No, queste cose finiscono quando ne è chiara la fine, se no i momenti di quiete sono solo quelli che preparano momenti di grande tensione. Sicuramente la Francia adesso, non fosse altro perché questi due poverini, e poi spiegherò perché ti dico poverini, decapitati nella chiesa di Nizza. Dico poverini perché, vedi, mentre Samuel Paty, il professore che è stato decapitato 2 settimane fa, quantomeno, adesso figurati, è un atto orribile, ma quantomeno c'era un motivo, perché aveva mostrato le vignette di Maometto in classe, insomma c'era qualcosa che schifoso ma comprensibile. Invece un povero prete e una povera donna che era andata ad assistere alla messa, questo è decapitarli, è proprio quello di cui stavi parlando tu, è una cosa ideologica molto più profonda, ma quei due non possono essere accusati nel mondo musulmano di alcunché, è una cosa orribile. Qualche giornale nota come, per esempio il Giornale, ho visto un articolo di Tony Damascelli, come ci sia per il momento un diverso grado di commozione fra uccisioni come quella di George Floyd negli Stati Uniti e quella di Samuel Paty. Non c'è dubbio che per uno Floyd, insomma, il mondo è stato scosso da una commozione molto forte, Paty si è tentato di rimuoverlo, se ne è occupato solo Macron, che per questo si è preso i fulmini della Turchia, di Erdogan, del Pakistan, del Bangladesh, e anche in questo bisogna dire che Macron è stato lasciato abbastanza solo, non è sì. Che in Italia anche, per esempio è stato sì. Certo, anche l'Europa, ma anche noi, perché poi non diamo il colpo all'Europa, noi che abbiamo fatto per Macron in queste 2 settimane, vabbè che eravamo occupati dal Covid, però c'è qualcosa di brutto, sì. In più c'è la coda italiana di questo caso, certo. Non dimentichiamoci, perché l'uccisore, come già vorrei segnalarlo perché è importante, alcuni suoi predecessori, cioè Anis Amri, quello che fece la strage del mercato di Berlino, e Mohamed Boulel, quello che fece la strage sempre a Nizza nel luglio 2016, hanno tutti la stessa storia. Arrivano su barchini o navi a Lampedusa, vengono smistati in Italia, se ne perdono le tracce e si ritrovano come attentatori in Francia. A me sembrano, cioè io non confonderei queste sì. cose con chi dice basta i migranti, oppure mi sembra esagerato e fuori luogo. Salvini ha chiesto le dimissioni del ministro Lamorgese, non c'entra niente il ministro Lamorgese ad ogni evidenza con questa storia, però il sì. tema che con i migranti sbarcano dei terroristi, è un tema così sì. che non si può per risolvere quanto, con un'alzata di spalle. Per quanto non fosse segnalato, permettimi di dire, Paolo, che la cosa si ricollega alla questione dei migranti anche per un altro motivo. Il motivo per il quale l'Europa non alza la voce con Erdogan in questo momento è esattamente quello, è esattamente il fatto che... Che lui tiene ai migranti, che se no ci manderebbe da noi, e noi l'abbiamo pagato per tenere certo. dei migranti. Questa è una cosa orribile. Cioè, andrebbe fatto un discorso più coraggioso sull'Europa e non andrebbero cercate scorciatoie, come appare oggi su tutti i giornali. I francesi sono indignati col sindaco di Nizza perché ha detto attentatori fascisti. Beh, insomma, anche qua non usiamo categorie sballate. Questi sono radicalisti islamici, quando sono fascisti, quando si ripresentano i fascisti vanno chiamati fascisti, ma l'idea di usare la categoria dei fascisti, o per esempio in Italia nelle manifestazioni la categoria della camorra dietro tutte le manifestazioni, non spiega, semplicemente non aiuta a capire. Quindi ci sarà la camorra dietro le manifestazioni di insubordinazione in Italia, ci saranno pure dei fascisti che si mescolano sì. ai radicali islamici, ma non è questo il punto. Visto sì. che stiamo in tema di scontro di civiltà, questioni complesse legate alla religione, c'è un'altra notizia che sarebbe diventata grande, più grande sui giornali se non ci fossero stati inizio Covid, che Jeremy Corbyn è stato sospeso per aver lasciato correre l'antisemitismo dal Partito Laburista che lui ha guidato fino alle più recenti elezioni. Keir Starmer, che è il nuovo segretario del Partito Laburista, ha definito questo un giorno della vergogna. Siccome molti negavano, dicevano ma no, ma che avrà fatto mai Corbyn, oggi è lo stesso Partito Laburista che all'unanimità, o quasi, non è unanime su questo, però diciamo a stragrande maggioranza, ha deciso di sospendere, perché i casi che sono venuti fuori in cui Corbyn confondeva l'antipatia che aveva tutto il diritto di avere per gli atti del governo di Israele con l'antipatia nei confronti degli ebrei, erano notevoli. Ma insomma sì. è una giornata complicata sì. però a leggerla con un filo conduttore forse si legge meglio. A volo però d'uccello non è che si sia sì, esatto, a volo d'uccello, Paolo, andrei proprio sulle cose Covid, che oggi abbiamo pochi minuti, però dimmi guarda, un po' di cose che hai visto, vai. Ti dico innanzitutto le date, che è una questione che ormai per colpa tua mi ossessiona. Dicono i giornali che la data del lockdown italiano dovrebbe essere già fissata al 9 novembre, leggo sui giornali. E scriviamo 9 novembre, aggiungiamo alle date da tenere presenti, va bene, ok. Tra l'altro io non capisco a volte se prendere dei provvedimenti drastici in anticipo sarebbe meglio. Oggi stiamo alla fine di ottobre, perché farlo il 9 novembre? Comunque, pensiero mio. Il picco della malattia, sempre secondo i giornali, cioè in prima pagina sì. sul Corriere della Sera, sarà a metà dicembre. Quindi 15 dicembre, segnare, segno sempre sì. 15 dicembre il picco, va bene. Ti direi, siccome ho visto che dicono sarà un mese il lockdown, almeno in Francia, in Germania sono segnati dal 9 novembre al 9 dicembre, è okay. pure un mese, okay. ma il picco arriva al 15 dicembre, cosa facciamo? Sospendiamo il lockdown mentre sta arrivando il picco? No, curiosa. No, è chiaro. Poi altre cose notate, bravissimo la Regione Lazio, che pare che stia per assumere il miglior virologo, Andrea Crisanti, che ha suo tempo all'inizio della pandemia lavorava per il Veneto, poi hanno litigato lui e Zaia, non si sono mai ben capiti i motivi di questo litigio, adesso lo prende la Regione Lazio. Il cuoco Filippo, lo chef Filippo Lamantia, è furibondo e dice che vuole dare le chiavi del suo ristorante a Conte perché si renda conto di quello che ha fatto. Peter Gomez sul Fatto se la prende con le televisioni, secondo me giustamente, che davano la parola alla fine primavera a Giulio Tarro, un medico in pensione che diceva che il Covid era finito, diceva, e nota una cosa, dice, loro, le televisioni fanno così, che mettono Giulio Tarro che dice delle cose stravaganti insieme a un altro che lo contraddice e pensano di aver risolto la questione. Non è così, perché se tu metti uno che dice che è tutta colpa di Simone Spezia e poi un altro sì. che magari debolmente dice che non è colpa di Simone Spezia, non è così, insomma. Che funziona. Paolo, grandi polemiche aspetta su Maurizio Costanzo, che ha riempito il teatro ancorché con delle sbarre di plexiglass per il reinizio del Maurizio Costanzo Show. Non gli andava a Maurizio Costanzo di far vedere il teatro mezzo vuoto. E grandi polemiche per il vescovo di Ascoli Piceno, Giovanni D'Ercole, tenetelo d'occhio, sì. questo personaggio, che è quello che disse che era una dittatura chiudere le chiese, che ha lasciato in comune accordo col Papa e se ne va in Africa. Sì. Strana storia. Sì, una strana Dimmi storia quella di Giovanni D'Ercole. Guarda, chiudiamo va con un po' di caciara. Peter Bescapè, vai. A fronte di 16.000 morti in Lombardia, la Calabria ne conta 98. Ne conta 98. A fronte di questo, lei il 29 aprile. La mascherina, deputato Sgarbi. Ho un certificato medico. Sì, ma l'ho letto. Non le impone di non avere la mascherina in aula. Deve mettere la mascherina. E lei è un fascista? Lei non può offendere così la presidenza. Colleghi, non rompiamo questo momento. E va bene Paolo, portato via di peso Vittorio Sgarbi. Sgarbi prende la scena, ma guarda che nello stesso tempo è protagonista a Rovereto, perché lì, dov'è consulente del Marte, Museo d'Arte Contemporanea di Rovereto, ha fatto piazzare un carro armato davanti al museo, che è una installazione di un artista situazionista, Guido Iannuzzi, perché secondo lui, adesso non ho ben capito, simboleggia la lotta contro Caravaggio, contro Michelangelo Merisi, insomma. E Rovereto è impazzita perché c'è questo carro armato in mezzo alla piazza davanti. Comunque simpatica, però c'è casino anche nella politica, caos nella politica, ma questo ne parliamo lunedì prossimo, perché ci sono, se secondo me Conte è fortissimo ancora adesso, lo ripeto, non credete ai giornali quando dicono che sta per cadere, però ieri questo smarcamento del capo dei senatori del PD, che ha detto che ci vuole il cambiamento di alcuni ministri, è strano. E Domenico Arcuri, ultima notizia, vai. Secondo il manifesto lo stanno per candidare in Calabria per presidente della regione. Io non credo, penso che Arcuri dirà di no, perché poi in mezzo a tutte queste cose non può uno essere sul fronte della lotta alla pandemia e contemporaneamente candidato in Calabria. Però si oppone, sai chi? Non tutti qua, si oppone all'estrema sinistra, che dice che vuole Mimmo Lucano e che Arcuri se lo tengano a Roma. E quindi vedremo anch'io un po'. Sono favorevole. Vedremo un po', vedremo grazie. Un po'. Paolo, a domani, buon fine settimana. Sì, a domani, ciao, a lunedì, buon fine settimana. Paolo Mieli, grazie, ciao. Quello che è successo ieri a Nizza, l'uccisione nella cattedrale di tre persone da parte di un terrorista islamico, un ventunenne di origine tunisina sbarcato a Lampedusa in settembre, riapre moltissimi fronti, così come moltissimi fronti li riapriva l'assassinio, li ha riaperti l'assassinio il 16 ottobre scorso del professor Samuel Paty, per aver mostrato in classe, in una lezione sulla libertà d'espressione, le caricature pubblicate da Charlie Hebdo di Maometto. E i fronti che apre sono quelli che in parte pensiamo di esserci lasciati alle spalle: il nostro rapporto con l'Islam, il tema della libertà di espressione, quello che qualcuno continua e torna oggi a chiamare uno scontro di civiltà, un fronte geopolitico naturalmente, il nostro rapporto con la Turchia, ambiguo, tremendamente ambiguo, con un'Europa incapace di condannare fino in fondo quello che sta dicendo e sta facendo Erdogan perché è l'uomo che tiene sotto controllo il flusso di migranti. Quindi un'Europa silenziosa, un fronte geopolitico più largo che ha a che fare con Francia e Turchia e le partite che stanno giocando in Libia da una parte e dall'altra nelle acque territoriali di Cipro. Molte cose, oggi cerchiamo di soffermarci su una ed è esattamente il nostro rapporto con l'Islam, che vuol dire e non vuol dire, perché i musulmani ormai fanno parte, sono un pezzo dei nostri cittadini, dei cittadini delle nostre, dei nostri paesi, un 5% circa in Italia, un 8% in Francia. Iniziamo però con una testimonianza dal paese dal quale veniva l'attentatore di Nizza e non è la prima volta che avviene questo, che venga dalla, che un attentatore venga dalla Tunisia e che passi dall'Italia, che è in questo caso luogo di accesso privilegiato, perché c'è anche questo fronte, il fronte della polemica politica sul tema dell'immigrazione. È successo, lo ricordavamo prima con Paolo Mieli, è successo con l'attentatore di Berlino, è successo con l'altro attentato di Nizza, quello lo ricorderete, col camion sul mercatino. Siamo in linea con Osama Al-Saghir, che è deputato tunisino, ha vissuto a lungo in Italia da rifugiato, è deputato tunisino di Ennahda, che è il partito islamico moderato. Buongiorno Al-Saghir e bentornato ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a lei e le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime. Senta, come legge tutto questo? Perché l'impressione è che anche in Tunisia, e lo abbiamo visto anche con l'attentato al Museo del Bardo, con l'attacco al Museo del Bardo, ce lo ricordiamo perfettamente, abbia rialzato la testa l'estremismo islamico. Il mondo è in crisi gravissima, economica, di battaglie geopolitiche, e questo tipo di eventi gravissimi sono una semplice espressione minima di un confronto che avviene altrove, come hai ben presentato, un confronto che avviene sul confine libico, un confronto che avviene su diversi posti nel Mediterraneo, un'Europa che è in crisi. La Tunisia vive bene quando l'Europa sta bene, perché l'80% del nostro commercio è con l'Europa. Quando c'è questa crisi, una guerra ai nostri confini in Libia, un'instabilità un po' ovunque, e abbiamo una crisi fortissima sociale. Sì. Questo dice lei, questo Al-Saghir spinge le persone verso l'estremismo in sostanza. Spinge le persone verso tutte le direzioni, purtroppo, verso la droga, verso il commercio delle persone, verso l'estremismo. E purtroppo contenere questo è davvero difficile, quindi trovi purtroppo facilmente le persone immigrare in modo come vediamo. Quindi è una crisi che purtroppo soffriamo un po' tutti in diversi modi. Come giudica la reazione al di là della violenza? C'è stata una reazione molto dura di un pezzo del mondo musulmano francese alla vicenda di Samuel Paty, perché noi non l'abbiamo detto abbastanza, ma la vicenda di Samuel Paty è stata preceduta da una settimana intera di proteste arrivate anche dalle moschee. Come viene letto nel suo paese un fatto di questo genere? Certo che qui non spero che non mettiamo in discussione la libertà di espressione, la libertà di esprimere le opinioni in qualsiasi modo. Il punto è, secondo me, si può fare senza offendere 1,5 miliardi di persone, si può fare nello stesso modo, si può criticare il profeta o qualsiasi tipo di religione, compreso l'Islam, non è questo il punto. Il punto è il modo che, a mio avviso, si poteva assolutamente evitare, perché c'è tanta rabbia nel nostro mondo, c'è tanta crisi nel nostro mondo, e questi modi sono un po' possono spingere dei pazzi che abbiamo in tutti i modi, in tutte le religioni, a fare delle cose brutte. Come è avvenuto in New Zealand, quell'estremista di destra che è entrato, ha ammazzato decine di persone, troviamo questo ragazzo tunisino che purtroppo ha ammazzato appunto vicino alla chiesa, e come potrebbe avvenire ancora. Quindi o spingiamo verso calmare le situazioni, cercare di trovare i punti in comune, oppure spingiamo verso l'odio, la rabbia e il confronto. Quindi c'è stato un errore, secondo lei, nel mostrare, nell'utilizzare ancora queste vignette per parlare del tema della libertà di espressione? Il modo era assolutamente sbagliato. Non è a discutere qui la libertà di espressione, però assolutamente, perché invece di criticare anche in maniera fortissima si offendono. È il modo sbagliato che molti gruppi estremisti dall'Islam, dal cristianesimo, da tante parti stanno aspettando per cercare di fomentare e trasformare questa battaglia sulle parole, sulle immagini, alle mani, alle guerre, alle armi e alle esplosioni. Grazie Osama Al-Saghir, deputato tunisino di Ennahda, e noi proseguiamo la nostra discussione, se volete chiamarlo chiacchierata, riflessione, e lo facciamo con due persone che immaginiamo abbiano visioni lievemente diverse. Saluto innanzitutto Lia Quartapelle, buongiorno, deputata del Partito Democratico e esperta di esteri, se ne occupa da anni. Buongiorno Quartapelle. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Benvenuta. E Suad Sbai, ex deputata del Popolo della Libertà, presidente dell'Associazione delle Donne Marocchine in Italia, si è occupata molto di questi temi e soprattutto in anni molto caldi. Sbai, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Il suo ultimo libro, se non sbaglio, sulla penetrazione dei fratelli musulmani in Europa. Sbai, inizierei da lei. Come legge questa vicenda, anche alla luce delle parole che ha sentito da Al-Saghir? Faccio una premessa. Non bisogna mai, io dico mai, dimenticare che il terrorismo è uno strumento, diciamo, un mezzo al servizio di un'ideologia criminale, terrorista della fratellanza musulmana. È di questa ideologia che bisogna almeno conoscere le vere radici, perché le vere radici sono politiche, nascono anche nel 1929, è un progetto politico, non bisogna più chiamarli islamici o islamisti, sono fanno politica, portano avanti un progetto ampio che ha dei veri radici. Analizzare anche le loro manifestazioni con dei strumenti adeguati e anche coraggiosi, non nascondersi. Qui l'Europa ormai si nasconde. Io sono allibita di quello che sta succedendo veramente questi giorni, e non solo questi giorni. Ormai noi combattiamo la fratellanza musulmana da 20 anni, abbiamo tenuto, siamo ancora in vita e parliamo ancora, riesco a parlare con voi. Anche le varie minacce continue, ma ce ne porta poco. Però ecco, bisogna analizzare questo fenomeno. Non è il ragazzo che è arrivato prima a Lampedusa, poi a Parigi, è arrivato radicalizzato, perché in un mese e mezzo, due mesi, non si radicalizza una persona. Questo è arrivato ben strutturato, è arrivato per fare dei danni in Europa, ma non per venire perché questione economica, questione Libia, questione Siria, ogni volta c'è una questione, no, è che noi siamo ormai in ginocchio verso questa fratellanza, noi o per i soldi o per paura, non sappiamo per che cosa, ma oggi guardate che ieri ma è un problema, Sbai, mi scusi, è un problema specifico con la fratellanza musulmana o è un problema, come qualcuno suggerisce, con l'Islam proprio? No, con la fratellanza musulmana, è quella che guida ormai, il capo oggi lo sappiamo, è Erdogan, e i finanziatori sono il Qatar, non lo dico io, lo dicono i scrittori anche importanti, è uscito anche a Mondadori francesi, dove i finanziamenti di 50-60 milioni di euro arrivati in Italia a quelle moschee vicino alla fratellanza musulmana. non si può dire, no, è scritto, raccontato, l'ho detto anch'io mille volte, però ci abbiamo sempre paura, chiudiamo, copriamo le statue, copriamo, attenti alle scuole, no, la scuola coranica, qui bisogna mettere dei punti, dei paletti, chi viene qua, intanto devo sapere chi è, da dove viene, come si chiama e perché è venuto, non si può, io non parlo di tutti gli immigrati che arrivano a Lampedusa, sì, sono terroristi, ma solo il 5% fosse terrorista, e lo è, purtroppo, è un dramma, è una bomba atomica, sì, che questi adesso sono per il Covid, purtroppo si nascondono, sono calmi e non sono strutturati, abbiamo una fortuna, e questo, la nostra fortuna, sì, è questi ragazzi che arrivano radicalizzati non sono non hanno una piccola rete, non hanno la rete dove possono reperire dei armamenti, dell'esplosivo, sì, usano i coltelli, usano le armi che è esattamente sbaglia esattamente quello che abbiamo visto. Quarta pelle, come la legge lei? Abbiamo un problema con questo pezzo di Islam politico? Ma prima di tutto, quello che è successo in Francia è gravissimo, molto preoccupante, appunto, come dicevate voi nell'introduzione, non è solo relativo all'attacco ieri di Nizza, ma c'è un problema più diffuso, è stato ucciso Samuel Paty, anche ieri ci sono stati vari episodi, non solo l'episodio di Nizza, non si capisce se emulati, cioè delle persone che cercavano di emulare l'attentatore di Nizza o comunque radicalizzate e collegate tra di loro, e quindi questa è la prima cosa da dire chiaramente. Quel tipo di terrorismo di matrice jihadista, islamista, va condannato, va combattuto, e dobbiamo essere vicini alla Francia e a tutti i paesi che rischiano quel tipo di o che insomma si trovano sotto attacco. Io poi credo ci siano tanti problemi qui dentro, non è che c'è solo la questione del rapporto con la fratellanza musulmana. Cioè? Primo di questi problemi ha a che fare con la presenza islamica nella nostra società, che in alcuni casi è una presenza positiva, che ci arricchisce, ma in altri casi, come denunciato dal presidente Macron con il discorso del 2 ottobre della lotta contro il separatismo, troppo spesso, ed è successo nel Regno Unito, sta succedendo in Francia, sono comunità che vivono una vita molto separata, e io credo che le nostre società, che sono delle società tolleranti, delle società aperte, ma delle società con regole, non possano tollerare per l'appunto che ci siano delle sacche di vita completamente diverse. Poi c'è un secondo problema, ed è un problema italiano, no? Sì. Il ragazzo che è arrivato è un ragazzo che aveva un foglio di via, il terrorista aveva un foglio di via e non è stato mandato via. E quindi la nostra normativa sui rimpatri forzati così non funziona. Ah, questo, guardi, questo guardapelle è un tema che sottoponiamo da sempre, cioè questa vicenda del foglio di via è una specie di barzelletta per la quale una persona riceve un foglio di via e poi nel quale gli si dice devi lasciare questo paese. Poi effettivamente lo ha lasciato nella fattispecie, per andare in Francia, però è evidente che su questo fronte c'è una normativa che non funziona. Fatto sta che, come diceva Sbai, presumibilmente è arrivato già radicalizzato, perché non è da settembre, no, immagino che condivida questa analisi quarta pelle, cioè non è che da settembre a ottobre una persona si radicalizza in questo modo, tanto da arrivare a fare una strage all'interno di una cattedrale, immagino. No, condivido l'analisi, ed è l'elemento forse più preoccupante, nel senso che se arrivano persone già radicalizzate che vengono, a cui viene dato il foglio di via, queste persone devono essere riportate indietro, non è possibile che appunto si pensi che collaborino con le autorità locali, già non collaborano, cioè nel senso, e questo è un punto su cui penso che noi dobbiamo essere molto chiari, perché se no si fa di tutta l'erba un fascio e si comincia a fare una propaganda che non serve a nessuno, cioè questo ragazzo poteva essere rimpatriato, doveva essere rimpatriato e non è stato rimpatriato, questo è il problema. Il terzo punto, che è un problema ancora più spinoso, magari ne parleremo più tardi, e lo dicevate voi nell'introduzione, è il tema del rapporto con la Turchia, che è molto ambiguo. E anche nelle reazioni a ieri c'è dentro tanta ambiguità anche da parte della Turchia, perché Erdogan ha incitato il mondo musulmano contro la Francia, ed è, insomma, noi siamo alleati insieme nella NATO. Sì. Questo non lo possiamo dimenticare. Certo, e la Turchia, lo ricordiamo, partecipa a una serie di pur non essendo parte dell'Europa. Partecipa a una serie di organismi europei, addirittura in uno dedicato ai diritti umani, se non vado errato, e questo mi sembra che sia un po' sia francamente curioso. Sbai, c'è un problema di ambiguità evidentemente nei confronti della Turchia a fronte di un personaggio che ormai sta rivelando, no, tutte le sue caratteristiche. Lui è chiarissimo. Lui siamo noi che siamo ambigui. Il rapporto nostro, sì, con lui che è ambiguo. Lui è un fratello musulmano, porta avanti, ha distrutto il suo popolo. Se andiamo a parlare con i turchi, e i turchi sono la metà dei giornalisti e nessuno ne parla, sono in carcere, sono tutti in carcere, tutti gli intellettuali, e nessun giornalista ne parla di quello tutti i giorni. Non dovremmo parlare dei giornalisti in carcere in Turchia e torturati. E va bene, questo è un piccolo dettaglio per alcuni. Secondo me, prima parlavate del fogliosia, questi sono ragazzi giovani che arrivano in Italia, sicuramente alcuni sono radicalizzati, altri non lo sono. E il foglio di via è un foglio che non vale niente. Io ho ragazzi che arrivano, il foglio di via, lavorano, fanno, alcuni, altri fanno terrorismo, però non c'è una regola che il foglio di via vuol dire accompagnare la persona all'aeroporto fino al suo paese. No, la maggior parte spacciano la droga dalla mattina alla sera nei nostri quartieri, e quando ci va bene, quando va male sgozzano e tagliano la gola alle persone. Sì, ce ne sono anche tanti che conducono una vita perfettamente normale. Io ne faccio parte. Sì, ci mancherebbe altro. Non sto generalizzando, io dico sempre quel 4%, quelli 4% che arrivano già radicalizzati, per noi deradicalizzarli è impossibile. Noi abbiamo un centro studi dove analizziamo queste tematiche. Sì. Siamo arrivati, non si può deradicalizzare una persona radicalizzata. Ormai ha in mente quello e lo fa. O lo fa oggi, o lo fa domani, o lo fa dopodomani. A noi non ci toccano per il momento perché abbiamo quegli accordi ambigui. Tocca alla Francia. Io il discorso di Macron l'ho visto semplice, senza problema. Non ho capito perché Erdogan doveva fare tutta quella confusione che ha fatto in tutti i paesi, più che altro Bangladesh, Pakistan, che dell'arabo, dell'Islam ne capiscono molto meno, a quasi nulla. Nel senso, ha parlato in modo chiaro, ha parlato dell'islamismo e contro la fratellanza musulmana, è quello che dicono tutti i paesi arabi. Non dimentichiamo anche i giornalisti algerini che hanno perso la vita, e anche gli intellettuali algerini che hanno perso la vita in mano a questa fratellanza musulmana. Fratellanza musulmana è un partito politico che sta in alcuni paesi, che non bisogna dialogare con loro, però qualcuno vuole dialogare con loro, ecco il risultato. Dobbiamo chiudere. Sì, poi ci sarebbe molto altro, ci sarebbe anche un po' di debolezza economica della Turchia che presumibilmente spinge Erdogan a prendere queste posizioni. È un altro elemento, ovviamente. Lì a quarta Pelle, deputata del PD, su Azsbai. Grazie ad entrambe. Noi ci sentiamo lunedì alle 6.30. Grazie a Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. In redazione Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. A lunedì alle 6.30 da Simone Spezia. Un buon fine settimana. Ciao.